Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera iniziamo parlando di Vivere all'estero, un libro che parla della relocation di successo e l'autrice è Francesca Pranstraller. Buonasera Francesca Pranstraller. Buonasera. Francesca Pranstraller vive a Milano, insegna all'Università Bocconi, ha un marito, due figli, un cane, una passione per gli Stati Uniti, dove ha vissuto e studiato, questo dice la quarta di copertina del libro, e un libro edito da Egea in cui non si parla solo dei problemi, diciamo, tecnico-burocratici sui passaporti, i permessi di residenza e così via, che indubbiamente sono importanti per vivere all'estero, ma si parla anche degli aspetti, sono forse i più importanti, psicologici da una parte e sociologici dall'altra, cioè come predisporsi ad andare a vivere all'estero, come scegliere di vivere all'estero e come integrarsi, se si vuole, e comunque in un minimo bisogna integrarsi nelle nuove realtà che si vanno ad affrontare. Allora, Francesca Pranstraller, iniziamo dagli aspetti, diciamo così, psicologici. Perché una persona, un giovane soprattutto, può decidere di vivere all'estero? Ma le ragioni sono molteplici, ovviamente, per cercare nuove opportunità, per lavoro, per seguire la persona amata, perché no? Certo. Per cercare, diciamo, ambienti diversi e a volte anche così più stimolanti. Quindi spesso per sfuggire alla disoccupazione si va a cercare un'occupazione all'estero che può essere anche meglio pagata e meglio, con migliori prospettive di carriera. Questo è sempre vero? Ma direi che sicuramente c'è anche questa componente nell'Italia di oggi, però non è affatto l'unica e l'unico motivo per cui le persone vanno all'estero spesso, anzi noi abbiamo a che fare con persone che vengono mandate all'estero dalle aziende, quindi che sono, diciamo così, portatrici di missioni internazionali organizzate dalle aziende stesse. Poi abbiamo ovviamente giovani che vanno a studiare all'università per un semestre o più, abbiamo i cosiddetti autoespatriati, cioè italiani che decidono di andare a vivere in un altro paese per cercare un lavoro e maggiore fortuna lì. Abbiamo un po' una varietà di categorie, abbiamo poi anche le famiglie al seguito delle persone che hanno incarichi internazionali, che possono essere in aziende o in organizzazioni internazionali. Ecco, indubbiamente che questa è una parte importante, e nella prima parte del libro c'è anche alcuni consigli utili, istruzioni per l'uso, mille cose da fare prima di partire, consigli essenziali. Qual è lo sbaglio principale che bisogna evitare andando all'estero? Beh, indubbiamente quello di non dimenticarsi il passaporto, ma poi c'è qualche altra cosa che forse viene messa in secondo piano e invece è importante, Francesca Pranstraller? Allora, distinguiamo gli aspetti pratici da quelli invece psicologici. Secondo me uno degli errori principali che si possono compiere è proprio quello di concentrarsi molto e soltanto sugli aspetti pratici, trascurando un po' invece la preparazione di tipo così più personale all'adattamento. Sugli aspetti pratici direi che una cosa fondamentale è cercare di prendere tutte le informazioni possibili, non soltanto su appunto passaporti, visti o vaccinazioni, ma anche sugli aspetti legati per esempio alle modalità di vita, al costo della vita, al tenore di vita nel luogo di arrivo, alla disponibilità dei beni anche alimentari a cui siamo sempre abituati, quindi a tutti quegli elementi di diversità quotidiana che poi fanno abbastanza la differenza nel giorno per giorno, nel vivere la realtà nuova. Certo, infatti poi andando avanti nel libro si parla di adattarsi a un nuovo ambiente, sfide personali e lavorative, quindi guardando anche alla realtà socioculturale dei paesi in cui si dovrà andare ad abitare, tenendo conto appunto che ci sono delle differenze di modi di vita che possono essere particolarmente forti e che possono creare anche problemi e disagio sociale. Sì, allora direi che il libro sostanzialmente ha questo focus, quello di aiutare le persone a mettere a fuoco più che altro le problematiche di adattamento all'andata e eventualmente anche al ritorno, più che dare, diciamo così, una serie di consigli spiccioli. Ci sono anche ovviamente una serie di indicazioni pratiche, ma il vero cuore, diciamo così, di questo lavoro è proprio quello di indicare alle persone il fatto che andando a lavorare o a vivere in un paese diverso da quello di provenienza, si va incontro inevitabilmente ad un processo di adattamento fatto di fasi, e che conoscere in anticipo l'andamento di questo, di questa cosiddetta curva dell'adattamento, e saperla in qualche modo gestire, è un elemento di grande ricchezza e anche di, diciamo così, di serenità maggiore con la quale si può affrontare un'esperienza che, essendo un'esperienza di grande cambiamento, ovviamente porta con sé anche delle difficoltà. Ecco, difficoltà che ci sono non solo in ambienti che sappiamo per il buon senso che sono completamente diversi, come possono essere quelli orientali, la Cina, il Giappone o l'India, ma anche in ambienti di stampo occidentale. C'è anche una cultura a cui bisogna adattarsi anche se si va negli Stati Uniti. Assolutamente, ma dirò di più, anche se si va in Francia, anche se si va in Germania, nel senso che, pur restando in Europa e avendo noi una grande privilegio di avere una mobilità facile negli altri paesi europei, in realtà sottovalutiamo sempre un po' il fatto che, nonostante un substrato comune, abbiamo comunque ancora anche molte diversità culturali. Quindi l'aspetto di non sottovalutare, di prendere in considerazione e di capire fin dal principio il fatto delle diversità a cui andiamo incontro è un elemento molto importante per garantire una buona relocation. Ecco, in un certo senso, cercando anche di sfatare i miti della realtà estere, lei dice, appunto, parla dei miti come i thailandesi gentili, i vietnamiti miti, i russi ubriaconi, gli svizzeri precisi, i tedeschi rigidi impassibili, i lavoratori, gli italiani romantici. Questi sono miti che vengono da lontano, ma che la realtà forse moderna ha un po' cambiato. La realtà è anche più complessa di questi miti. Ma assolutamente, perché questi, diciamo così, stereotipi nascono dalla necessità di creare un'idea generale, generalizzata, che poi sia applicabile per affrontare la diversità. Quindi lo stereotipo ha anche una sua funzione positiva, però va sempre considerato il fatto che lo stereotipo è una gabbia, è una generalizzazione che non possiamo applicare in maniera indiscriminata. Noi sappiamo bene che oggi il mondo è molto più variegato ed è molto più diverso di quanto fosse una volta, anche all'interno delle diverse culture. Esistono molte subculture, esistono influenze da parte anche di gruppi che magari non sono originari di quella cultura, ma che ne fanno ormai parte, sono integrati. Quindi anche su questo utilizzare con molta cautela gli stereotipi, che possono servire, diciamo così, come prima mappa di lettura per avere un minimo di orientamento, ma poi vanno subito abbandonati a favore invece di una lettura un po' più approfondita della realtà in cui ci si trova. Ecco, una realtà in cui ci si integra e poi diventa anche difficile eventualmente ritornare in Italia. E questo, anche a questo tema è dedicato un capitolo del libro, perché sia perché magari si è andati all'estero su missione delle aziende in cui si lavora, sia perché sono cambiate le condizioni e si ha bisogno di ritornare. Appunto, però lei cita appunto una testimonianza di un dirigente di una multinazionale che comincia col dire: tornare a casa è stato come schiantarsi a 1000 all'ora contro un muro. Ecco, forse chi vive all'estero, soprattutto se vive in un ambiente, diciamo così, un po' protetto, come può essere quello di una multinazionale, con delle garanzie, anche con dei privilegi, può essere forse più facile addirittura di quello di vivere in Italia, dove la competizione invece è più viva e più aperta. Ma direi che il fenomeno della fatica di rientrare nella propria cultura, nel proprio paese di origine, è un po' un fenomeno diffuso, non è soltanto italiano, è un fenomeno che accade più o meno a tutte le persone che hanno vissuto e si sono ben integrate in un paese straniero, che poi rientrano nel loro paese d'origine. Quindi succede agli americani che vivono in Europa, piuttosto che a noi italiani che andiamo in qualunque paese del mondo. Ed è anche qui di nuovo un processo psicologico di riadattamento alla propria cultura, che va affrontato con un po' di consapevolezza e anche con la capacità di capire che esistono delle fasi, di nuovo, nel momento del rientro, che vanno in qualche modo gestite e attraversate per potersi riadattare alla cultura di origine. Quando si fa il movimento in andata o in rientro, il problema è proprio quello di riprendere un po' le misure dell'adattamento psicologico e culturale, perché vengono stravolti tutti gli elementi, sia di relazioni sociali che di segni e segnali nella vita quotidiana a cui ci siamo abituati. Ecco, il libro si conclude con un'osservazione secondo me particolarmente interessante, nel senso che in fondo anche stando in Italia dobbiamo avere dei paradigmi che, come se vivessimo all'estero, perché lei scrive anche oggi, restando a casa nostra, dobbiamo prepararci a capire e gestire la multiculturalità, e un periodo trascorso all'estero è il modo migliore per acquisire le capacità per farlo nel modo più equilibrato. Quindi ecco, vivere all'estero è un affrontare una diversa cultura, un diverso modo di vivere, ma già adesso, già all'interno dell'Italia, avere una capacità di capire i valori di diverse culture, di diversi modi di vivere, può essere, anzi dovrebbe essere, un fattore positivo. Anche questo può aiutare la lettura di questo libro anche per chi non deve andare all'estero, ma vuol capire un po' che il mondo è vario, è fatto anche di aspetti positivi, anche perché forse talvolta l'estero è sulla porta di casa nostra. Francesca Prastaller, per concludere. Sì, beh, assolutamente. Direi che per esempio uno dei grandi elementi positivi dei nostri giovani oggi è proprio questo aumento molto, molto forte della loro possibilità di andare a studiare almeno per un periodo all'estero. Il fatto di sentirsi stranieri in un altro paese, doversi adattare ad un'altra cultura, ha alcuni vantaggi indubbi. Il primo è che ci fa, diciamo così, immedesimare molto anche nelle persone che poi magari sono quelle che vengono alle porte di casa nostra e verso le quali noi istintivamente proviamo magari ostilità o fastidio. Il secondo elemento è il fatto di metterci in contatto con un'altra cultura, il che ci fa realizzare delle cose fondamentali, non soltanto che la nostra non è l'unica e non è l'unico modo di vivere possibile, ma che per certi aspetti ci possono essere anche degli elementi assolutamente positivi che possiamo acquisire da altre culture. Certo. Ecco, concludiamo con una citazione che c'è nella pagina di copertina di Italo Calvino: il luogo ideale per me è quello in cui è più naturale vivere da straniero. Grazie a Francesca Prastaller, autrice del libro Vivere all'estero, guida per una relocation di successo, edito da Egea, 160 pagine per 16,50 euro. Grazie anche a Carmelo Lauricella in regia e Luca Cremonese in redazione. L'appuntamento con Economia in Pagina è per sabato prossimo.